Storiacce di Raffaella Calandra. Il processo mediatico condiziona inevitabilmente poi anche la decisione dei giudici, tanto più in processi come questi che si svolgono davanti alla Corte d'Assise, dove fanno parte anche dei giudici popolari. Ma è stato davvero così? Davvero l'iter di un processo può risentire fino ad esserne condizionato degli umori collettivi e ancor di più delle campagne mediatiche? C'è anche solo il minimo dubbio che possa essere successo questo nel caso di Avetrana, uno dei delitti più mediatici e torbidi degli ultimi tempi, cioè che possa essere successo, come ritengono gli avvocati, che la dimensione televisiva dei protagonisti possa aver influenzato i verdetti contro di loro fino a farli condannare, anche se innocenti? Se ci pensate, anche solo ipotizzare uno scenario del genere fa venire i brividi, soprattutto perché qui si parla di condanne al carcere a vita, ma da Cogni ad Erba fino ad Avetrana, mentre lo share della cronaca in TV sale, il tema del processo mediatico si ripropone, costante, e finisce con l'essere una delle questioni centrali delle politiche sulla giustizia. E voi cosa pensate della cronaca in TV? Da qui ripartiamo in questa puntata di Storiacce. Il cortocircuito tra il rito mediatico e il processo penale è destinato ad accentuarsi. Si conferma anche per questo aspetto l'urgenza di un intervento riformatore, diretto a restaurare le linee del giusto processo. Debbono essere ricostruite le linee dell'attrazione della figura del pubblico ministero nella cultura della giurisdizione, da cui di fatto è visibile in alcuni casi il distacco, per una sorta di spiccata autoreferenzialità, anche nei rapporti con la narrazione mediatica, e che per altro verso meriti di essere presa in seria considerazione la proposta di aprire talune finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini. Processi mediatici. Il richiamo è sì per i cronisti, ma è innanzitutto per i magistrati ed è risuonato nell'aula magna della Cassazione durante le cerimonie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario per bocca della più alta toga, il primo presidente Giovanni Canzio. Un richiamo dalle molteplici sfaccettature, ma che si rinnova soprattutto quando una buona parte d'Italia, e soprattutto del pubblico televisivo, segue per settimane e mesi ogni sviluppo di un caso di cronaca nera. Delitti che quanto più misteriosi, opachi e turbolenti sono, tanto più alimentano dibattiti, producono puntate e creano inevitabilmente opposte tifoserie. Contro o a favore di Sabrina e Cosima, contro o a favore dello zio Michele, i principali protagonisti della saga di Avetrana, durata 7 anni, vissuti sempre sotto i riflettori e conclusa con la sentenza della Cassazione, che condanna all'ergastolo le due donne, cugina e zia della vittima, ma che comunque ancora non viene vissuta da tutti come l'accertamento definitivo della verità. Tanto che perfino avvocati notoriamente prudenti e istituzionali, potremmo dire, come Franco Coppi e il suo braccio destro Roberto Borgogno, al di là del loro ruolo di difensori delle due donne, si spingono a puntare il dito contro l'influenza avuta dalle trasmissioni televisive nel convincere i giudici nei vari gradi della colpevolezza di Sabrina e della mamma Cosima. La nostra convinzione circa la innocenza di Sabrina Misteri e Cosima Serrano è, direi, incrollabile fin dall'inizio di questo processo. Vedremo se ci sono iniziative da prendere. Certo, non abbandoneremo questa battaglia, che per noi è proprio una battaglia per la giustizia. Le ipotesi che esplorerete sono un ricorso in Europa o una possibile revisione del processo? Certo, le strade sono limitate perché chiaramente dopo la sentenza della Cassazione le possibilità di impugnazione si riducono, ma noi però in questo processo riteniamo che ci siano state delle violazioni di principi fondamentali, della possibilità per la difesa di esaminare nel contraddittorio delle parti i testimoni che sono stati fondamentali per l'accusa. Questi principi naturalmente, nella misura in cui potremmo farli valere anche in sede europea, li faremo senz'altro valere. La sentenza della Cassazione arriva 7 anni dopo il delitto, un tempo che è stato passato, soprattutto nella fase iniziale, quelle più delicate per questo tipo di indagini, quasi interamente sotto i riflettori per i protagonisti di questa vicenda, a cominciare appunto da quelli che adesso sono quelli condannati in via definitiva. Tutto questo, secondo lei, ha esercitato un ruolo? Senz'altro sì, perché purtroppo il processo mediatico ha queste caratteristiche: focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica su una determinata ricostruzione dei fatti, che poi naturalmente viene discussa sui mezzi di comunicazione di massa, e naturalmente nella misura in cui poi viene portata avanti anche dai commentatori, prende piede e condiziona inevitabilmente poi anche la decisione dei giudici, tanto più in processi come questi che si svolgono davanti alla Corte d'Assise, dove, come ovvio, fanno parte del collegio anche dei giudici popolari, che quindi sono certamente sensibili agli umori dell'opinione pubblica, ma anche ancora più sensibili ai messaggi che poi lancia la televisione o i giornali. Quindi, secondo lei, queste sentenze, primo, secondo grado e quindi ora anche quella della Cassazione, sono sentenze viziate dall'influenza del processo mediatico? Noi abbiamo una convinzione su questo processo, che si tratta di una vicenda estremamente semplice, un delitto d'impeto commesso da una persona che evidentemente quel giorno ha perso la testa, quindi noi non sappiamo farci una ragione di come questa storia semplice abbia potuto poi tradursi in una complicazione enorme come quella che ha caratterizzato questo processo. Credo che su questo abbia certamente inciso una certa attenzione dell'opinione pubblica, che si è focalizzata su questa storia, forse anche tenendo conto delle immagini dei personaggi così come sono apparsi in televisione, e che ha certamente fatto preferire una soluzione anziché un'altra. Da una parte c'è, diciamo, l'opinione, la convinzione dell'opinione pubblica, dall'altra è, ed è ben diverso, il pensare che la convinzione dell'opinione pubblica possa aver esercitato un ruolo nella convinzione dei giudici. Ma questo credo che sia inevitabile, le ripeto, in questi processi in cui comunque fanno parte della Corte dei giudici popolari, che sono necessariamente sono giudici non professionali e soggetti comunque all'influenza dei media, e credo che questo sia assolutamente inevitabile. Beh, però in Cassazione non ci sono i giudici popolari. Lo so, però in Cassazione arrivano anche naturalmente delle sentenze che si sono delle sentenze pronunciate in 2 gradi di giudizio, con argomenti che si sono stratificati nel tempo, e anche la possibilità di incidere da parte della Corte di Cassazione è limitata, il giudizio di Cassazione ha uno spazio più limitato. Un'accusa pesantissima. Questa chiaramente è la posizione di una parte, della parte sconfitta di questo lungo caso giudiziario vissuto tutto sotto i riflettori, dall'inizio, dall'annuncio alla mamma di Sara in diretta con chi l'ha visto, del ritrovamento del corpo della quindicenne, fino alla fine, quando lo zio Michele, dalla sua villetta, risponde ancora ai microfoni del TG2 in attesa che i carabinieri lo portino in cella. Io adesso mi vengono a prendere. E come si sente lei? È sereno? Io sì, sereno, ma non sono sereno per un'altra cosa. Perché ci sono 2 innocenti in carcere, anzi 3 sono, con mio fratello Carmine. Gli chiedo perdono per tutti gli errori che io ho fatti. Questo, non mi hanno creduto. Questo è un errore giudiziario. Secondo me ancora non è finita. Andremo ancora avanti. Vediamo. In questa storia, soprattutto nei mesi iniziali, va detto che il rapporto con i media è stato anche strumentalizzato dagli stessi protagonisti, gli sms di Sabrina ai conduttori, gli appelli in TV di Cosima alla ricerca della nipote, e poi le confessioni e le ritrattazioni di Michele Misseri. Ma se questo è stato forse il caso più emblematico e distorto di processo mediatico, la questione in realtà si propose già con Cogne e si ripeté poi ad Erba, tra boom di ascolti televisivi, plastici in studio e criminologi a gogo. Ma la domanda è una e resta assai seria. Tutto questo resta sul piccolo schermo o rischia davvero di orientare le scelte dei giudici, soprattutto quando si tratta di processi come questi, celebrati in corte d'assise, quindi anche con giudici popolari, secondo l'obiezione degli avvocati di Sabrina e Cosima? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce, in cui cercheremo anche di andare dall'altra parte della questione, da magistrati e conduttori TV. Storiacce. L'hanno trovato qui, vicino al cassonetto della spazzatura all'esterno di una fabbrica di pavimenti a Laurentino. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione era avvolto in una coperta lugubre. Si tratta di un uomo seminudo, ai piedi legati, era incastrata tra le pietre in frangionde di un canale di Garlasco nel Pavese. A trovare lo hanno trovato disteso sul pavimento della cucina di casa sua con il cranio fracassato e tre giubbotti che ne coprivano il cadavere. Un cadavere avvolto in un sacco, abbandonato ai margini di un bosco, ancora una volta sulle montagne del Lecchese. Probabilmente si tratta di una donna. Sgozzata e con le mani mozzate, su tutto il corpo ferite da coltello e di un oggetto appuntito, forse un cacciavite. La scena del crimine, lui e la moglie erano nel salotto a guardare la televisione, hanno un momento di intimità, lui non ci sono stati litigi, non c'è stato nulla da questo punto di vista che lasciasse presagire, va in cucina, prende uno dei coltelli del set della cucina e lui da dietro la colpisce prima nelle parti della giugulare del collo, ma anche poi la colpisce sull'addome, anche dietro. La moglie urla: perché? E perché, io vi chiedo, alcuni casi di cronaca nera emergono da sperduti paesini fino ad allora sconosciuti e diventano all'improvviso il giallo che tutta l'Italia segue? Perché all'improvviso delle persone con vite ordinarie escono dal loro anonimato per diventare i protagonisti di storie di cui tutti parlano e di cui tutti o comunque molti vogliono sapere sempre di più? Pensateci un attimo, basta fare nomi di località come Cogne, Garlasco, Avetrana e subito nella testa si compone come una geografia criminale. E mentre si scandagliano le vite di altre vittime e di nuovi assassini, noi vogliamo farci un'altra domanda. Cosa significa per gli investigatori avere il fiato sul collo dei media? Il modo in cui stampa, radio e TV si buttano su certi casi, come viene vissuto dall'altra parte, dalla parte di chi deve effettivamente cercare l'assassino e ha i suoi tempi e le sue regole non sempre compatibili con quelli della messa in onda? Una domanda questa che qui a Storiacce ci siamo posti più volte e che ora possiamo tradurre anche in modo più esplicito. Tutto quello che corre in TV, le interviste, i dettagli, i commenti, i litigi, può condizionare anche l'esito effettivo dei processi? Perché questo è quello che ora, dopo la sentenza della Cassazione sul caso di sul delitto di Sara Scazzi, è questo quello che ritengono gli avvocati, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce. I 7 anni sotto i riflettori di uno dei casi più intricati, tutto sviluppato all'interno di dinamiche familiari e poi attraverso l'uso e la strumentalizzazione anche dei giornalisti, può aver giocato un ruolo nel condannare all'ergastolo i colpevoli? Di sicuro, e forse tra i primi casi fortemente mediatici, c'è stato quello di Cogne e l'allora procuratore capo di Aosta, Maria del Savio Bonaudo, oggi avvocato, ammette che anche loro non potevano non tener conto della forte presenza dei media. Mi aspettavo che questa pressione durasse per un paio di giorni, poco, e invece, come forse anche i giornalisti si aspettavano e speravano, perché sono stati un po' tutti sbattuti su ad Aosta con l'idea che il caso si risolvesse, diciamo, nell'immediato o quasi. Invece, ecco, il peso di questa pressione si è aggravato proprio per la sua durata. In qualche modo, però, in una situazione del genere, in un ufficio giudiziario, bisogna tener conto anche di tutto quello che esce sulla stampa. Voi inevitabilmente dovevate tener conto anche di tutto quello che all'interno, soprattutto, delle infinite trasmissioni televisive usciva e poi ancora di quello che gli stessi protagonisti delle vicende dicevano? Io non è che mi sia messa a leggere tutti gli articoli di stampa. Però le trasmissioni televisive le ho sentite, anche per rendermi conto di quello che si diceva, e devo dire che sono uscite notizie assolutamente false, non corrispondenti al vero, che comunque erano tali da ingenerare nell'opinione pubblica l'idea che in effetti questa indagine, specialmente questo è successo dopo l'arresto della signora Franzoni, e venivano portate delle prove indicate delle prove a suo favore che non esistevano agli atti. Quindi, credo che sia per questo che si è creato anche un orientamento dell'opinione pubblica secondo cui questa signora poteva essere innocente, ma io le dico che a distanza di anni delle persone che magari ho conosciuto nel frattempo mi chiedevano: ma è proprio vero, era proprio lei, siete sicuri? Cioè, voglio dire, al di là di quella che può essere la certezza processuale, queste notizie hanno, assolutamente false peraltro, hanno ingenerato il sospetto che la procura avesse trascurato degli aspetti, degli elementi importanti. Il processo mediatico viene considerato e additato come una delle principali storture della nostra macchina giudiziaria. Ciclicamente, insieme alla questione delle intercettazioni, si prova ad aggiungere nuove norme e, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiaccio, questo è stato anche il principale richiamo alle toghe del primo presidente della Cassazione. Ma la cronaca nera in TV fa ascolti, fa molti ascolti, e aumentano allora gli spazi in tutti gli orari in cui si seguono fino ai più piccoli sviluppi dei casi, come in un'infinita telenovela noir. Quarto grado, Chi l'ha visto, Vita in diretta, Pomeriggio 5 e ora ancora Bianco e Nero. I palinsesti televisivi traboccano di cronaca, il pubblico si schiera ora con l'uno, ora con l'altro presunto innocente. Ma in realtà, quando fatta bene e senza la ricerca della lacrima in tutti i costi, il racconto della cronaca ha anche aiutato a dare la giusta direzione alle indagini. Ed è questo quello che ora rivendica un cronista di lungo corso come Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado. Lo dimostrano i fatti sono tanti e sono eclatanti. Basti pensare alla morte di una bellissima ragazza siciliana, Valentina Salamone, trovata impiccata. Grazie al Quarto Grado è stata riaperta un'inchiesta che era stata archiviata come suicidio, e invece poi riaprirono l'inchiesta e scoprirono che fu un omicidio. Quando è stato arrestato a Varese Stefano Binda, un ragazzo accusato di aver compiuto un delitto 30 anni fa, di aver ucciso una sua coetanea, Lidia Macchi. E la svolta su questo caso, dopo tanti anni, è arrivata perché una telespettatrice di Quarto Grado ha visto in televisione una lettera anonima che la famiglia, i familiari, i genitori della vittima di Lidia Macchi avevano ricevuto il giorno dei funerali della ragazza. La famosa poesia. Ebbene, in quella calligrafia ha ritrovato una calligrafia che conosceva. Ma perché appassiona così tanto il dolore e il male? Perché migliaia di persone restano incollate ogni giorno davanti alle TV per seguire le ultime confessioni, le rivelazioni in esclusiva, le accuse in diretta, proprio come già 2000 anni fa si seguivano le tragedie a teatro? Su questo molto gli antichi si interrogarono. E allora, come sempre a questo punto, la linea va a Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Com'è possibile, si chiedeva Platone, che quando andiamo a teatro a vedere una tragedia proviamo insieme dolore e piacere? Piangiamo per le disgrazie dei personaggi, ma ne ricaviamo anche una incomprensibile gioia. Guardiamo storie di delitti, stupri, incesti, eppure proviamo uno strano diletto. Le disgrazie di persone strane, diceva un altro filosofo dell'epoca, il siciliano Gorgia, fanno nascere in noi un brivido di spavento, uno struggente desiderio di dolore che pure ha qualcosa di dolce. Insomma, lo spettacolo del dolore, prima che dai nostri schermi TV, era passato dai teatri di Atene. Grandi spettacoli popolari anche quelli, dove, bene ricordarlo, non si mettevano in scena solo i fattacci del mito, ma anche quelli della cronaca. Poeti come Eschilo trasformavano in spettacolo anche le guerre contro i persiani, a cui loro stessi avevano partecipato, e in cui erano morti tanti ateniesi. Eschilo stesso vi aveva visto morire suo fratello. Il pubblico restava sconvolto, ma anche incantato. Viveva i dolori dei personaggi come fossero suoi propri, ma al tempo stesso sapere che non era lui la vittima di tutte quelle disgrazie lo faceva stare meglio. Il dolore altrui ci tocca, perché potrebbe essere il nostro, ma al tempo stesso ci conforta il fatto che non sia il nostro, che noi ne siamo, almeno momentaneamente, immuni. È dolce, diceva il poeta Lucrezio, guardare dalla riva la sofferenza di chi rischia di annegare tra le onde. Quando ci sediamo, comodi e protetti, sulle nostre poltrone di telespettatori, confermiamo la massima di Lucrezio. E voi cosa pensate della cronaca in TV? Seguite quei programmi? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter all'account Raf Calandra. Altrimenti leggeremo i vostri messaggi anche via WhatsApp al numero 349-238-6666. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.